Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Cavanaugh on Tam Tam Europe on Radio Tour, the moving station, bringing you the best news and altre cose quattro volte al giorno. Allora arriva la notizia che il cantante dei Goo Goo Dolls, Johnny Resnick, si sta separando dalla moglie Laurie. La separazione è sempre un fatto triste, ma questa volta non si tratta di un rapporto finito, ma piuttosto la decisione di seguire la propria carriera. Infatti tornerà a studiare per ricevere il diploma necessario per insegnare alle scuole superiori. Spiega il cantante: non stiamo divorziando. Siccome non ci vedremo molto spesso, tenteremo di staccarci uno dall'altro fino a quando le nostre vite non si saranno assestati. Dopo tanti anni passati a sostenermi quando il successo non arrivava, ora sarò io a sostenerla. E qua Tam Tam Europe gli auguriamo il meglio. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Questo è tutto per il momento, da Fergal Cavanaugh vi lascio con The Goo Goo Dolls e Slide. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. On your own, I wonder where you are, live with all your faults. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all, so why don't you smile? Disowned you. Don't suppose I'll ever know. So me to be a man, or something I can change. I live around here. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everyone, this is Fergal Cavanaugh e benvenuti a Tam Tam Europe. Queste pillole vanno in onda quattro volte al giorno e sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Il nuovo album di Andreas Johnson, Liebling, sta avendo molto successo e i critici continuano a lodarlo, dicendo che è un bel esempio del classic rock come gli U2 della Joshua Tree. Ma ultimamente Andreas ha raccontato di come ha quasi perso l'occasione di registrare questo album. Nell'ufficio del boss del suo record company avevo 3 canzoni registrate sul DAT, ma la cassetta si è bloccata e rischiavo di non far ascoltare i suoi brani al grande capo. Per fortuna c'era una chitarra appesa al muro e Andreas l'ha preso per suonare i suoi pezzi. E viva la musica dal vivo, that's what we say on Tam Tam Europe. Per adesso è tutto, ringraziamo la redazione di Londra di Radio Tour The Moving Station e vi invito di visitare il nostro website www.radiotour.it. Da Fergal Cavana è tutto, vi lascio con Andreas Johnson dalla Svezia e Submerged. Alla prossima! Tam Tam Europe. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Cavanaugh on Tam Tam Europe on Radio Tour The Moving Station, bringing you the best news and altro della nostra redazione di Londra. E parliamo di Smash Mouth, che hanno appena completato un tour degli Stati Uniti sponsorizzato dal grande server dell'internet Yahoo. Mentre tanti artisti trovano problemi con lo sponsorship, gli Smash Mouth affermano che questo è forse il migliore tour che abbiano mai fatto. Il cantante Steve Harwell dice: il fatto che sia tutto organizzato da Yahoo ci ha dato la possibilità di rilassarci e godercelo. Di solito impazziamo, ma questa volta non possiamo lamentarci. E dal loro l'ultimo album Astro Lounge vi facciamo ascoltare All Star, che dice: adesso che sei una rockstar, avanti con lo spettacolo, così sarai pagato. Molto appropriato. Se ci volete segnalare gruppo di ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Da Tam Tam Europe e Fergal Kavanaugh vi lascio con gli Smash Mouth e All Star. Alla prossima. Tam Tam Europe. Somebody won't tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that's coming is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder.

bought a ticket to the end of the rainbow. I watched the stars crash in the sea. If I could ask God just one question. Why aren't you here with me? Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Queste pillole che vanno in onda quattro volte al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. E buona notizia per Fatboy Slim, è l'artista che ha guadagnato più soldi più velocemente nella storia della musica. L'anno scorso ha incassato 7,7 milioni di sterline, una cifra che i Beatles sono riusciti a guadagnare soltanto dopo 5 anni di attività. Ricordiamo che Fatboy Slim suonava il basso negli House Martins negli anni 80, ma poi è diventato un DJ e remixer, forse il più conosciuto in tutto il mondo. Infatti Courtney Love vuole lavorare con lui sul nuovo album degli Hole. E l'anno scorso Fatboy Slim si è sposato con un speaker delle BBC Radio, Zoe Ball, che a me fa sperare di beccare un giorno a Britney Spears. If you want to send me an email, my address is fergal@radiotour.it. That's all for now from Tam Tam Europe with Fergal Kavanagh. Vi lascio con Fatboy Slim and Right Here Right Now. Alla prossima. Tam Tam Europe. Media. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e benvenuti a Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda quattro volte al giorno vi raccontiamo le notizie più trendy preparate dalla nostra redazione di Londra. E su Tam Tam Europe abbiamo già parlato del matrimonio di Fatboy Slim e Zoe Ball della BBC, ma Norman Cook non è stato l'unico ad essere colpito da Zoe. Anche i Suede hanno avuto modo di dichiarare la loro ammirazione. Infatti il loro hit dell'anno scorso, She's in Fashion, cioè lei è di moda, parlo proprio di lei. I testi dicono She's the face on the radio, lei è la faccia sulla radio. She's the body of the morning show, lei è il corpo del programma della mattina. Lei è di moda. Allora magari un giorno Carmen Consoli scriverà un brano per me. Questo è tutto per ora. Se ci volete segnalare brani o gruppi da ascoltare in Tam Tam Europe, chiamate lo 081 790 1411 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Dalla nostra redazione di Londra e da Fergal Kavanagh vi lasciamo con i Suede per Zoe Ball e She's in Fashion. Alla prossima. Tam Tam Europe. Party on the morning show. Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh e voi state ascoltando Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda 4 volte al giorno raccogliamo le notizie preparate dalla nostra redazione di Londra. Allora oggi andiamo in Galles, dove troviamo gli Stereophonics. Sono il gruppo del momento del rock inglese, quindi c'è molto sorpreso per il fatto che il cantante del gruppo, Kelly Jones, ha fatto un pezzo dance. Questa canzone è stata registrata con il gruppo dance Manchild, che vengono anche loro dal Galles. Kelly Jones dice che la dance di solito non gli piace, ma questo pezzo è proprio bello. We'll have to wait for the single to hear this strange rock and dance mix. Se ci volete scrivere o proporre brani e gruppo da ascoltare, l'indirizzo è fergal@radiotour.it. Questo è tutto per il momento, da Londra e da Fergal Kavanagh vi lascio con i Stereophonics, dal loro ultimo album Il barista e il ladro, The Bartender and the Thief. Alla prossima! Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello and welcome to Tam Tam Europe. This is Fergal Kavanagh che vi porta tutte le notizie più belle del mondo del rock dalla nostra redazione di Londra al centro dell'Europa. E i Subsonica sono stati invitati a partecipare ad un convegno sulle teme linguaggi selvaggi, le nuove forme di comunicazione giovanile, promosso dall'Istituto di Enciclopedia Italiana Treccani. Nel discoteca Alfeas di Roma, Max Casacci e Luca Ragagnin hanno parlato del loro metabolismo nel linguaggio sonoro, l'importanza che riveste nella loro proposta musicale l'elaborazione del mix tra suoni e parole. Si sono dichiarati molto onorati e hanno detto: ci fa piacere che degli studiosi si siano accorti della nostra originalità nel panorama musicale. Presenti altri ai fan del gruppo c'erano illustri studiosi e sociologi del linguaggio e del tendenza giovanile e alcune centinaio di studenti dell'Università di Roma. Dopo, i Subsonic hanno suonato un gran bel concerto per 1000 fortunati. Noi vi salutiamo ricordandovi che l'indirizzo email è fergal@radiotour.it. From Fergal Kavanagh and our news desk in London, this is Subsonica with Colpo di Pistola. Speak to you soon. Tam Tam Europe. Ritorno sui miei passi e adesso contali bene. Il tempo che è passato non è una buona ragione. Odia che non mi basti lo scambio di un'opinione. E neanche l'imbarazzo con cui mi mostri le scuse. La muta del serpente nasconde il tuo Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and welcome to Tam Tam Europe, la vostra pelle di rock e oltre in onda quattro volte al giorno on Radio Tour, the moving station. E gli artisti di rock spesso provano ad esprimersi con collaborazioni di artisti inaspettati. Molto inaspettata la collaborazione dei Metallica, che potrebbero essere definiti heavy metal. L'anno scorso hanno registrato con Marianne Faithfull, la diva della folk music dagli anni 60, e adesso è uscito il loro disco con Michael Kamen and the San Francisco Symphony Orchestra. Dice il chitarrista Kirk Hammett che i risultati sono molto migliori di quello che si aspettavano. Hanno pure fatto due spettacoli insieme e vorrebbero portarlo on tour, solo che costerebbe troppo, 104 persone per ogni spettacolo. If you want to call us here on Tam Tam Europe, the number is 081-790-1411 or send a message to 0348-2438-888. Do la nostra redazione di Londra e do Fergal Kavanagh, vi lascio con i Metallica and the San Francisco Symphony Orchestra e Nothing Else Matters. Alla prossima! Tam Tam Europe. Mathers, i Metallica su Radio Tour, the moving station. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello and welcome to Tam Tam Europe. This is Fergal Kavanagh che vi porta tutte le notizie del rock più belle dalla nostra redazione di Londra al centro d'Europa. E ci è arrivata la notizia che gli INXS parteciperanno in un spettacolo di Tim Rice con quale scriveranno la musica. Tim Rice, ricordate, è l'autore con Andrew Lloyd Webber per Evita e Jesus Christ Superstar. Per gli INXS questa è la loro prima uscita dopo la scomparsa due anni fa del suo cantante Michael Hutchins. Il cantante verrà sostituito da David Essex e altri, e anche lo stesso Tim Rice. Gli NXS dicono che trovano questo progetto una grande sfida, che fanno perché nessuno se lo aspetterebbe da loro. Per il momento sono programmati soltanto 10 spettacoli in Australia, ma prima o poi speriamo che verrà un po' più vicino a noi. Allora da Tam Tam Europe vi salutiamo ricordandovi che l'indirizzo email è fergal@radiotour.it. From Fergal Kavanagh and our news desk in London, this is NXS with Michael Hutchins and Baby Don't Cry. Speak to you soon. Tam Tam Europe.